Smart City, la città intelligente. Buonasera da Maurizio Melis, parliamo di mercato immobiliare ed efficienza energetica stasera a Smart City, a partire dal rapporto che l'ENEA ha messo a punto insieme a FIAIP, la Federazione Italiana Agenti Immobiliari Professionali, e DICOM, che è l'Istituto per la Competitività. Ne parliamo di questa ricerca con Antonio Disi, che è ricercatore dell'ENEA, uno dei principali protagonisti, diciamo, nello stilare questo rapporto. Buonasera Disi. Buonasera a voi. Senta, partiamo con qualche numero sul mercato immobiliare, insomma, vendite, quante in alta efficienza, quanti edifici poco efficienti? Allora, dal punto di vista del rapporto tra le vendite e le classi energetiche, noi abbiamo un 70% dello stock immobiliare transato che è in classe G. Quindi la peggiore, l'ultima. La peggiore. Quindi parliamo degli edifici esistenti. Mentre per quanto riguarda le altre classi, più o meno si ripartiscono tra un 3% della classe B, un 6% della classe D, sempre considerando varie tipologie di immobili e varie localizzazioni degli immobili in centro, in periferia. Per quanto riguarda il nuovo, invece, il dato che è salta all'occhio è un 20% del nuovo che è in classe G. I motivi possono essere diversi. Ecco, no, ricordiamo una cosa, che la legge prevede attualmente che debbano essere almeno in classe C questi edifici, cioè le norme prevedono questo, quindi questo 20% in classe G è veramente preoccupante. È preoccupante, potrebbe derivare in parte da una vendita di immobili costruiti prima del 2006, forse uno stock immobiliare ancora non venduto, però dall'altra parte probabilmente c'è un'applicazione della legge non perfetta. Diciamo forse anche da parte delle maestranze, da parte dei progettisti, insomma un'incapacità sostanziale di realizzare edifici con quelle prestazioni. Tra l'altro 20% in classe G degli edifici nuovi, non è che l'altro 80% sarà tutto perfettamente a norma, ci sarà qualcosa nelle classi intermedie, no? Sì. Ecco, un effetto sui prezzi c'è? Allora, noi utilizziamo un metodo comparativo di valutazione, quindi noi abbiamo cercato di capire, dati due immobili simili per quanto riguarda la posizione, le altre caratteristiche, strutturato o non ristrutturato, se ci fosse una divergenza invece per quanto riguarda la classe energetica, e questa divergenza non c'è. Non c'è. Ma questo vuol dire che le case in classe A vengono vendute allo stesso cifro di quelle in classe D o E o cose di... In realtà è una variabile che poco conta, sia per quanto riguarda, se non in alcune situazioni di pregio, perché fa molta, ecco, utilizzata come veicolo pubblicitario. Fa figo, diciamo così. Ecco, c'è almeno un effetto sulla collocabilità sul mercato, cioè magari i prezzi non lievitano, ma comunque si riescono a vendere più facilmente questi edifici ad alta efficienza? Almeno apre un po' il mercato, voglio dire. Questo. Sì, no, okay, meno male. Sta aprendo il mercato, probabilmente anche sull'onda della riqualificazione degli incentivi al 55%, quindi qualcuno 65 tra l'altro adesso acquista l'immobile, quindi lo acquista già ristrutturato con delle caratteristiche prestazionali elevate e quindi fa un affare in quel momento, invece di dover intervenire con fondi propri. Avete fatto questa ricerca appunto con gli agenti immobiliari, sono sensibili a questo tema, che ruolo possono avere? Gli agenti sono sensibili, sono una chiave importante dell'intera filiera, chiaramente sono l'ultimo anello prima dell'acquirente, del venditore, si sentono pronti a poter anche valutare immobili, loro sono convinti di saperlo fare, si sono anche formati attraverso corsi di formazione che hanno fatto negli anni, però lamentano la mancanza di sensibilità dovuta anche alla mancanza di informazione che loro non riescono a dare. Ma d'altra parte io sarei sorpreso, da un certo punto vorrei anche dire questo, insomma noi per anni abbiamo messo sì qualche incentivo e tanti pannelli fotovoltaici sul tetto, vorrei capire perché la gente, a quale non è stato minimamente spiegato il problema, dovrebbe essere sensibile al tema dell'efficienza energetica. Infatti un elemento, questo della comunicazione, che adesso l'Unione Europea si è resa conto che l'informazione e il modificare dei comportamenti è un driver fondamentale per portare tecnologie a casa, però gli agenti in questo momento, anche sull'onda della crisi dell'immobiliare, sono pronti a fare questo ruolo di front office, quindi di sensibilizzazione dal basso verso i cittadini. Infatti collaboreremo con la FIAIP per mettere a punto una campagna nazionale utilizzando le agenzie come luogo di... Le agenzie immobiliari proprio, agenzie, no? Agenzie immobiliari in cui verranno date delle indicazioni al cliente nel momento in cui il cliente vende o compra l'abitazione. Ma si parla, se non sbaglio, anche di qualche libercolo che potrebbe essere distribuito? Sì, per, sì, no? Un brochure, un libercolo. tubercolo e a formare anche gli agenti a diventare degli opinion leader per risparmio energetico e efficienza energetica, saperne parlare al cliente è importante. Va bene, grazie Antonio Disi. Grazie a voi, buonasera. Ci fermiamo qui, appuntamento a domani.